vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici, io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ce vado io, bacio la tua. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Complimenti per il programma. Vi seguo sempre. Dalla mattina alla sera. Non è bello ciò che è bello, ma che è bello, che è bello, che è bello. Parenzo, vogliamo iniziare con una cosa strana oggi? Inizio con una cosa molto strana, guarda, una cosa molto molto strana. Iniziamo con un tipi da zanzara, dai, così per scaldarci. Dai, perché basterebbe questo per chiudere la trasmissione, non voglio più fare niente, non voglio più andare in onda. Cioè, mi è bastato Donato da Varese di ieri. Signor Donato da Varese. Iniziamo così, dai, in maniera strana. Cambiamo le carte in tavola, non col solito menù del giorno e le voci e questo e quest'altro. Dai, tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Donato da Varese, sentite, numero uno, eh. Donato Varese. Salve, io voglio dire una cosa. Dimmi. La RAI non è mai stato una cosa pubblica. La RAI è stata dei partiti, non è stata una cosa pubblica, dei partiti. È un ammasso di porci, è un ammasso di porci. Beh, adesso questo mi pare un ammasso di porci adesso. Mi pare che lei si è fatto prendere un po' la mano. Si è fatto prendere, l'hai slittata, allora, la frizione, enorme, come dire, no? È un enorme accozzaglio di nulla facenti, le caculisti, scavi, parasi, zocco non indicato. Diciamo, io non capisco. Sì, un certo Franco Di Mare. Ma che c'è? Gerardo Greco. Ma perché? Ma lei è uno psicopatico, pazzo. Duilio Gianmarino. Ma lei è psicopatico. Secondo. Fammi sentire questo. Questi tre cornuti, mi devo dire, è pazzo. Con quale modalità sono entrati in Rai? Concorso hanno fatto. Alcuni hanno fatto il concorso. Ma questo è pazzo. Concorso esorda hanno fatto. Ma hanno fatto una minchia. È una cozza, è un cesso enorme per i raccomandati. Io pago il canone se la RAI mette le telecamere al contrario. Fa vedere che cazzo c'è dietro. Voglio una RAI con le telecamere. Donato, non aspetta, Donato. Aspetta, fallo parlare questo Donato. Dimmi, Donato, vuoi una telecamera? Voglio una RAI con la telecamera al contrario. Voglio vedere dietro la Clerici. Chi cazzo c'è? Altro che quel porco arabo che gli dà 5.000 euro a puntata. Ma dove cazzo siamo arrivati? Questa ma non trovo un arabo di merda che non sta nemmeno parlando. Vieni, cazzo bello, ti porto la trasmissione. Ti faccio dare 5.000 euro a puntata. Il seguito dopo. Tipi da zanzara. Parenzo è imbarazzato, colpito, distrutto. Che c'hai, Parenzo? Che sì, hai? Che hai? Colpito, imbarazzato, distrutto. Giusto le tre. Allora, giusto, colpito, imbarazzato e distrutto. Spero che l'ambulanza poi lo abbia portato dove a fare gli accertamenti di rito. Allora, diciamo. D'Alema dice che non c'è mai stato con Renzi questo disprezzo per il sindacato. Cioè, le posizioni politiche e qualche frase di Renzi, secondo me, assolutamente meritoria nei confronti del sindacato. Secondo D'Alema è il disprezzo. Cioè, se uno non vuole trattare fino in fondo con i sindacati, se non vuole dare tutto ai sindacati, se non vuole sbracare davanti ai sindacati, significa disprezzarli. Vabbè, D'Alema. certamente la sinistra al governo non rappresenta il sindacato e quindi può anche avere momenti di discordia con il sindacato, ma l'asprezza dello scontro, l'insulto, il disprezzo del sindacato a cui abbiamo assistito in queste ultime settimane non ci sono mai stati e secondo me sono un errore. In America non si fanno tanto abbindolare dalle masse, dalle proteste, eccetera. E proteggono i loro poliziotti, caro Parenzo. Proteggono i loro poliziotti. Perché se uno ha reagito e ha sparato, lì viene trattato in un certo modo, cioè viene protetto. Cioè, sentiamo questo signore, questo poliziotto che ha sparato al nero, da cui poi tutte le rivolte, eccetera, eccetera, ha detto: ho agito per legittima. Figuriamoci in Italia cosa sarebbe accaduto. Ma sarebbe accaduto un inferno, avrebbero messo questo sotto processo e tutto. You have a very clean conscience. The reason I have a clean la coscienza pulita. Ho fatto bene il mio lavoro. Così in America proteggono i poliziotti. Oh, c'è il caso di un consigliere comunale di Vicenza. Di Vicenza, sì. Tale Cicero che abbiamo sentito. Chiamarlo, Cicero. Sì, ma sentiremo più avanti. Che sostiene una cosa: che i nomadi sono come i maiali. Ai nomadi piace lo sporco. Sentite. Quello che non si capisce è come si possano permettere minimamente di affermare che non gli piace quel campo. Certo che non gli piace. Avete mai provato a vedere i maiali dove stanno? I maiali stanno bene nel quello che in vicentino si dice l'uamaro, perché non stanno nel pulito, stanno nello sporco. Allora loro vedere questo campo così lindo, così pulito, così messo a posto, non gli va bene, perché sono abituati a stare in un ambiente che non è quello. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Amici miei, abbiamo con noi uno dei nuovi pionieri della televisione, mezza italiana, mezza albanese, che sta per partire, Agon Channel. Oggi. Pupo, caro Pupo, Enzo, come stai, amico mio? No, veramente, guarda, è un piacere parlare con te, parlare con Davide, perché io sono, un patito della Zanzara. Lo sapevo, sei un grandissimo. Senti, ma dove ti trovi? Mi dicono che ti trovi a Milano. No, a Milano, al Principe di Savoia. In un albergo che è praticamente troppo di livello troppo alto per me. Ma come mai? Ma tanto paga Becchetti. Ma ci avete il sacco dei soldi, stai al Principe di Savoia. Becchetti è numero uno, Becchetti avanti tutto. Dacceli i soldi, Becchetti, dacceli i soldi. Becchetti for president forever. Ma scusa, Tirana, andiamo tutti a Tirana. Scusi, mi sono ci siamo un po' scaldati troppo, scusate. Scusa, andiamo sopra. Tutti a Tirana. Andiamo tutti. Ma scusa, Pupo, ma Enzo, se chiamiamo, non so come chiamarti. Chiamami Enzo, dai. Ma scusate, ma veramente a Principe Savoia? Ma una camera costa 500 euro. No, idea. Siamo, guarda, veramente al top. Da Dio, fate anche un massaggio. Beh, amico mio, questa è vita, ragazzi. Allora, ma io dico, Enzo, cosa farai lì? Pare che curerai tre produzioni, reality, bella, una canzone per 100.000. Esatto, no, io curo un po' quell'ossatura del pomeriggio, che è praticamente un'ossatura di game. Praticamente si torna a rivedere una televisione del pomeriggio che secondo me alcuni rimpiangono, con tre o quattro game show belli, insomma, ti diverti, puoi vincere qualche soldo. Ma che volete fare alla fine? Volete sfidare chi? Cioè, ma nessuno, credo che insomma, ora mica puoi pretendere chissà che, però insomma, sgraffignare un po' di telespettatori a quelle televisioni che a quell'ora parlano sempre di disgrazia, sì. Capito? Canale 33, tu vuoi andare in competizione con la signora D'Urso, per esempio? Ma magari qualche, capito? Vuoi sgraffignare la tua ex fidanzata D'Urso? tutto. Beh, perché? Madonna, però guarda, ti devo dire una cosa, No, io ti ho ascoltato quando l'hai intervistata l'ultima volta, perché io quando torno dall'estero sono un patito, proprio, cioè sono praticamente se tu ti candidi io ti voto. Allora, praticamente io ho ascoltato la D'Urso, gli hai fatto tutte le domande, ma non gli hai chiesto niente di me e non gli hai neanche chiesto come era andata a finire la causa. No, ma la causa tu l'hai vinta, la causa l'hai vinta. Cioè, perché lei aveva detto, perché è una storia, perché è una storia, ma lei non manco ne abbiamo parlato, perché non mi ricordo, non è che si può parlare di tutto, no, ma era una roba che non era nemmeno in quei giorni lì. No, voglio dire una cosa, ma lei ti aveva fatto causa perché tu avevi detto che gli avevi dedicato una canzone perché aveva dovuto una storia, giusto? No, io allora ho detto che avevo dedicato una canzone, la storia di noi due, che poi l'avevano usata bellissima per fare la pubblicità e la storia, com'è che noi due la sappiamo solo noi. Beh, guarda, lo sai che io me la sono messa a lungo quella cosa, e la storia di noi due la sappiamo solo noi. Fantastico. Io non voglio raccontarla mai a nessuno. Ed era la storia con la D'Urso? Era un flirt, che lei era una ragazzina, io uguale, capito? Lei negò. No, ma si offese anche perché io dissi, siccome questa canzone fu usata per fare la pubblicità dell'HD di Sky, e allora io dissi che lei, quando noi avemmo quel flirt, lei era come il Cassano giovane, capito? Ti ricordi, c'erano come no, il Cassano giovane, e oggi invece è come il Cassano, allora, ma lo dissi a battuta, poi disse una grande signora, lei si offese molto. Si incazzò, disse addirittura, sì, copupo, allora sono stata pure con Alvaro Vitali. Con Alvaro Vitali. Grande battuta. Io lì mi sarei dovuto offendere, ma io me ne fotto di queste ma cose. Sì, ma non so quanti soldi ti voleva spillare, che già è un casino. 50.000 euro, ma ti rendi conto che Barbara vai a rubare in casa ladri, ma ti rendi conto? Ma l'ho vista ieri sera, l'ho vista. Ma lei è carina, io voglio molto bene. Ti vuoi bene, però gli vuoi sgraffi. La porteresti in Albania? Subito. Cioè, se pigliate... c'è già stata in Albania. Sì, lo so, è stata una dei pionieri. No, la porterei subito, ho già trovato il posticino per andare a cena, perfetto. Beh, sarebbe. Però mi sa che bisogna spillare un sacco di soldi, Enzo, per portarla lì. A te qua. Ghinazzi, però i soldi ce l'ha. A te quanti soldi ti dà? Diciamolo subito. Quanti soldi mi dà chi? Agon. No, sì. No, non è carino, però mi dà. Cioè, sono ben pagato. Diciamo la verità, la maggior parte delle persone vanno là è perché c'è uno che sgancia un sacco di soldi. Beh, signore, ma io direi c'è un progetto, questa è una motivazione importante, che alla nostra età, dopo 40 anni, il prossimo anno festeggerò 40 anni di carriera, cioè non, poi ho un sacco di famiglie, come tu sai, da mantenere, quindi io devo lavorare, non sono ricco, ho bisogno di soldi per lavorare. Un po' ne hai buttati, purtroppo. Però insomma non mi lamento. E però chiaramente c'è anche un aspetto creativo. Lui sa che mi ha detto Francesco quando l'ho incontrato, mi ha detto Enzo, tu ti devi occupare della parte dei game, che tu sei fuori, ti ho visto ad affari tuoi, il mallò, tutte le cose che hai fatto, e inventati qualcosa, ti do fiducia, hai carta bianca. Ho detto, cacchio, quando dopo 40 anni che vai con il tuo mestiere trovi gente che ti dà ancora le motivazioni, soprattutto dopo che la RAI ti ha trattato in quel modo, diciamo la verità. No, con la RAI no, io non sono rapporti con la RAI. Poi ha messo mano a portafoglio e la RAI rapporti. No, dico Becchetti, la RAI poi ha messo mano a portafoglio, Becchetti. Sì, ma Becchetti è uno forte, è uno che non scherza. Ieri ha detto in conferenza stampa che ci ha buttato 40 milioni di euro senza rivolgersi alle banche in questa avventura, ragazzi. Vabbè, traffico, torniamo subito con il mitologico Enzo Ghinazzi, detto Pupo. Io al principe di Savoia. No, io ho una cosa da chiedere. Devi venire là, te lo dico subito. No, c'è una cosa che devo chiedere a Pupo, e questa cosa qua voglio sapere se è ancora vivo con due donne, perché è una cosa che mi ha sempre entusiasmato, perché io sono come lui, cioè mi piace il poliamore. Vivi anche tu con due donne. No, vorrei praticare il poliamore. Guarda, una ce l'ho qui accanto adesso mentre parlo con te. Dagli un bacio, è un'altra a casa che mi sta aspettando. Quindi. Dagli un bacio da parte ma mia. Traffico, torniamo. Bacio da parte di Cruciani. Ecco, bacio da parte di Cruciani. Traffico, torniamo subito con Enzo Ghinazzi. Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi. Siamo ad alti livelli qua. Io non voglio raccontare mai a nessuno. Beh, splendida, praticamente sono stato mesi con questa canzone, l'ho fatta ascoltare continuamente a mia figlia insieme a Gelato al Cioccolato, devo dirti la verità, la mettevo, Viola, se... Becchetti, ma si chiama Viola tua figlia? Viola, sì. Anche Viola. Mia nipote se si chiama Viola. Allora, ma è vero che questa storia con due persone ancora resiste, non dite che è bigamo perché la bigamia non c'entra niente. Non c'entra niente. Non c'entra nulla, si chiama poliamore, giusto? Come si chiama? Ma non so come si chiama? Io non ho progettato nulla, è capitato che ho incontrato due donne fantastiche, da 25 anni siamo insieme, ecco. Ma scusa, ma e tra di loro non c'è rivalità, non è... gelosia? O... Guarda, fra di loro credo che non ci sia chiaramente quell'amore che è idilliaco, però c'è un rispetto pazzesco. Noi siamo ogni tanto, senza ostentazioni, siamo insieme, anche abbiamo passato anche qualche giorno insieme da soli noi tre, ma non abbiamo mai fatto nulla di peccaminoso. Non abbiamo mai fatto l'amore in tre, ma non ci sarebbe niente di no, strano. Ecco, non, quello non lo sopporterei, non mi piace, no. Cioè ognuno sì, assolutamente. Ma loro due hanno vite esclusive con te o hanno rapporti a loro volta con altri? Non lo sopporterei altri? Mai. Bravo, no, questo è fondamentale. Ma come bravo? Che vuol dire bravo? No, cioè nel senso che voglio dire il tradimento, no, è terribile. È un tradimento questo, assolutamente. No, ma la cosa lui che dice ti chiedo... non sopporterei che le mie compagne facessero questa cosa che faccio. Beh, io ti sta dicendo Pupo, non sopporterei mai, anche perché è una cosa che è così, anche un percorso così di sofferenza, perché tu pensa che qualche anno fa... Cioè non lo consiglieresti? No, per carità, la Mondadori mi chiese di scrivere un libro di come si faceva a vivere con due donne, io lì per lì, perché mi davano anche un buon anticipo, e allora io ci ho pensato un attimo, poi ho detto, ma scusa, ma perché devo rendere proprio squallida una cosa che non so neanche io come è accaduta? Però è successa, basta, non si può raccontare, è così, noi siamo tre persone ormai grandi, sono, ripeto, tanti ma fisicamente ce la fai? Adesso non voglio farti scendere nelle cose. Ancora gliela fa, Ah, raga, ma io sono quelli bassi, sono pieni l'andrologo che dice? Dice che hai capito che quelli proprio c'è un concentrato di testosterone pazzesco. Un po' come Putin, allora, che sembra questa cosa. Putin. Ah, tu sei andato in Russia? Sì, vado spesso, ma andrò anche venerdì, parto da Milano, vado anche lì a pagano, Monza. Anche lì pagano per ma i concerti. Pagano lì, cioè, si sta bene, insomma, io Putin è un democratico, secondo te è un democratico Putin? Putin secondo me è un uomo giusto per i russi, e certamente con i difetti e con i pregi degli uomini politici, che può piacere o non piacere, io non ho mai preso posizione. Però lo attaccano troppo, dici, da qui dall'Occidente. Secondo me è un uomo molto determinato, e un po' di determinazione ai politici non guasta. Non guasta, sì, certamente, però insomma, è chiaramente poi a te basta che ti apprezzano, te pagano. No, io non ho mai preso posizione, esempio, a differenza che con i miei colleghi che io ai quali sono affezionato e voglio bene. Riccardo Foglia. Non ho mai preso posizioni, no? Ho sempre rifiutato di parlare di queste cose, anche perché. Però una volta per Renzi hai detto che sei andato Renzi mi sta troppo simpatico, capito? Sì, perché è per la Fiorentina, perché è Viola, perché insomma è uno che. È l'uomo giusto per l'Italia, secondo te? È l'uomo giusto per l'Italia Renzi, ma Renzi è un uomo che può traghettare l'Italia verso una realtà nuova, quello ce la può fare. Io chiaramente oggi come oggi, siccome ho sempre dato il mio voto, è sempre stato un voto destinato meno alle sinistre, più al centro, più così. Oggi come oggi è chiaro che sono anch'io più orientato per Renzi, perché non è un uomo completamente di sinistra. Ah, perché non è proprio comunista, sì, tu dici. No, assolutamente. Parenzo, che forza, Pupo, è un grandissimo. Sulla Russia è ancora sulla breccia dopo tanto tempo, pieno di vita, pieno di... Per esempio, questa cosa del gioco, no? Ecco, Baldini, secondo te è vero che Baldini ha lasciato Fiorello la trasmissione a radio per i debiti, secondo te, per i debiti di giochi? Ci credi allora, a questa onestamente cosa? Onestamente credo che ci sia altro sotto. Oh, ecco. Onestamente non so cosa, ma onestamente non penso che, cioè, la dichiarazione che ha fatto non posso essere più una garanzia, mi sembra davvero molto sterile e poco credibile. Non so cosa ci sia, sicuramente secondo me è una questione di rapporti professionali che a volte si logorano, perché stare accanto a delle star e a degli accentratori come Fiorello non deve essere facile. Vabbè, salutiamo Pupo, dai. Vi voglio ciao, bene. Pupo. Ciao, ragazzi. Ciao, presto, ciao. Ci sentiamo dopo il giornale radio, giornale radio delle 19. Caro Parenzo, ti scandalizzerai, ma c'è un fantastico libro che è appena uscito, che ha come titolo Lei viene prima. Lei viene in che senso? Lei viene a un orgasmo prima, lei viene prima. Non pensavo fosse una questione di appuntamenti. No, di Jan Kerner, in cui c'è un vero e proprio manifesto del cunnilinguista, succede il cunnilingus, capito? C'è un vero e proprio manifesto, vero e proprio... Ti leggo solo due frasi perché sono solo le 19:18. Questa è la letteratura di cui ti occupi. Altissima letteratura. Solo due frasi, altrimenti i bambini si scandalizzano e poi ci rimproverano, eh? Cioè, allora, la prima frase è questa: a ciascuna donna, secondo le tue capacità, ciascuno secondo i bisogni di lei. Beh, è fantastico, se ci pensi bene è fantastico. Ripeto, a ciascuna secondo le tue capacità, ciascuno secondo i bisogni di lei. Non dimenticherò mai, scrive questo signore, sì, questo studioso, questo scienziato, scienziato, un sessuologo, non dimenticherò mai quando ho condotto una donna all'orgasmo con la lingua. Finalmente ero un professionista. Beh, questa frase, devo dire che è eccezionale. Questa frase, se ci pensi bene, è eccezionale. Cioè, racchiude tutta una filosofia, tutta una vita. Sì, non dimenticherò mai quando ho condotto una donna all'orgasmo con la lingua. No, ma io immagino anche il nostro editore Squinzi, che finalmente adesso era un professionista. Io immagino anche, sì, cioè, il nostro editore che si è sintonizzato su Radio 24 come sempre e dice: sì, vediamo un po' cosa succede a quest'ora sulla mia radio, visto che oggi ho detto che la ripresa ci sarà nel 2015, visto che già l'orgasmo. L'orgasmo io femminile. Immagino sempre la scena di lui che torna a casa in macchina. Vediamo la giornata di lavoro intensissima, cioè, sì, vediamo un attimo, no, gira la manovella, no, come gira la manovella. Spinge il bottone, quello spinge che il bottone, oppure dice all'autista di cambiare, di cambiare stazione, metti su Radio 24, metti un attimo su Radio 24, lascia stare questa musica, non è che guida la macchina lui, no? No, vabbè, non lo so, vediamo cosa se parlano della situazione economica sulla nostra radio, magari faranno i problemi di Forza Italia. Esatto. E invece il cunnilingus. Eccola. Lorenzo, tu da quant'è che non scopi? Vabbè, adesso. Io adesso non capisco il commentino della signora Nicchia Rivelli, però cosa gli interessa, cosa le interessa, diciamo. Oh, animalisti incazzati, notizie minori, animalisti molto incazzati perché in Lombardia, nella regione Lombardia, hanno approvato un emendamento, non so che è una legge, eccetera, per cui si possono ammazzare le nutrie, le famose nutrie. Sì, perché c'è una proliferazione di questi roditori che sono molto pericolosi, eccetera. Anche a Treviso c'era un caso analogo. Beh, come no, mi ricordo Gentilini. Le nutrie, sì, roditori che recano ingenti danni all'agricoltura e ai corsi d'acqua, possono essere eliminate su tutto il territorio lombardo, incluse le zone dove è vietata la caccia, anche con le armi da sparo, il gas, le trappole e le armi da lancio in individuale. Animalisti incazzati. Vabbè, sentiamo i titoli del TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi al Quirinale col ministro Boschi su legge elettorale e riforme, è possibile un percorso condiviso con un ampio arco di forze politiche. All'ufficio di presidenza di Forza Italia Fitto chiede primarie per tutti, Salvini un suicidio, Berlusconi sono convinto della bontà del patto del Nazareno. Confindustria vede rosa per il 2015, con la riforma torna la possibilità di un rilancio dei consumi, la CGIL sul Jobs Act, possibile ricorso all'Unione Europea. Arriva il piano per far ripartire l'economia dalla UE, Juncker si volta pagina, Padoan, primo passo per uscire dalla stagnazione, ma i fondi sono pochi. Per le acciaierie di Terni è il giorno più lungo, i lavoratori tornano in fabbrica, mentre a Roma è conto alla rovescia per la trattativa sugli esuberi. La Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia, 250.000 insegnanti precari devono essere assunti o risarciti, Giannini riforma in linea con la sentenza. A Ferguson, Missouri, un'altra notte di scontri dopo il proscioglimento del poliziotto bianco che uccise il ragazzo afroamericano ad agosto, Obama, basta violenza. Siamo ad alti livelli qua, Il Movimento 5 Stelle si dibatte intorno a un dubbio amletico, intorno a un interrogativo fondamentale, caro Parezzo, che è lo stesso ormai da anni che veramente ci ha fatto due palle così. Cioè, andare o no in televisione? Posso dire, ma chi se ne frega? Ancora Grillo rimprovera quelli che sono andati in televisione. Com'è che si espelle? Espelle ancora no, ma rete. Ancora no. Com'è che si chiama quello che è andato in televisione l'altro giorno? Dalla signora Sardoni? Sì, la mattina, Omnibus. Là, non mi ricordo. Rizzetto, che è andato in televisione a dire che forse c'è qualcosa da cambiare nel rapporto con gli altri partiti, no, nel Movimento 5 Stelle, e loro ancora a parlare andiamo, non andiamo, cosa serve la televisione, selezionare le trasmissioni. Senti questo tizio che si chiama Barbanti, Movimento 5 Stelle, deputato Barbanti, che dice a un certo punto non andiamo in televisione a soddisfare il nostro punto G, con la Ravetto incazzata. Ripeto, non siamo qui per soddisfare il nostro punto G, siamo qua per parlare di temi. Ma fate un corso di parità di genere prima di andare in TV, perché io ritengo che Grillo abbia fortemente ragione. Se queste sono le vostre apparizioni televisive, è gravissimo. Vabbè, non ha detto niente di particolare, ha parlato del punto G, su, dai. Va bene, andiamo a Pordenone, Rudy. Buonasera Cruciani. Vai. Piuttosto di, dei grillini che parlano del punto G, preferisco il titolo del libro che ha presentato 2 minuti fa, che già mi sono dimenticato. Si chiama Lei viene prima. Lei, perfetto. La donna viene io prima. Meglio parlare di questo che del punto G dei grillini. Una cosa mi fa bollire il sangue, io vi ascolto volentieri, ma quando sento Prezzo che parla di persone rom che vogliono integrarsi mi bolle il sangue. Io non la pensavo così, però da 2 anni abitano sopra casa mia e volevo esprimere la mia solidarietà a quel consigliere di Vicenza che avete fatto sentire prima. Ma cosa vuol dire abitano sopra casa sua? Cosa vuol dire? Dove sopra? Cioè, abitano in un campo o in una casa? Abitano in una casa della quale non pagano l'affitto, non pagano le bollette e compagnia bella. E allora volevo dire che il consigliere di Vicenza che avete fatto sentire prima è una delle cose più sensate che ho sentito dire da un politico in questi giorni. Cioè che non si lavano, sono vogliono restare nello sporco come i maiali. Che stanno bene da soli, io le parlo per esperienza concreta. Invito il suo collega che invidio, tra parentesi, perché riesce a, insomma, a farsi pagare per dire qualche sciocchezza e tutta la mia invidia e anche una parte di stima, le invito a venirmi a trovare. Io abito Pordenone, Radio 24 i miei dati, e facciamo 4 parole serenamente e cercherò di far capire che se qualcuno ogni tanto la spara grossa quel consigliere comunale di Vicenza che ha detto che i rom sono come i maiali, perché in sostanza amano vivere nello sporco e non vogliono andare in situazioni più pulite, più ordinate, più degne. Ma secondo me è la sparata grossa, l'ha esagerata, però per esprimere cioè ha detto che i nomadi sono come i maiali, dai, su, andiamo. Sì, questo è esagerato, però che se ne siano questo però il punto, e che non abbiano grossa simpatia per il rispetto delle regole, posso dirvelo, ma non per chiacchiere sentito al bar, ma per vissuto sulla mia pelle. Va bene, grazie Rudy. Carmine, provincia di Como. Carmine. Ciao Cruciani, ciao Marese. Dimmi. Ascolta, ma da dove chiama questo? Non lo so da dove chiama, ma non si sente nulla. Sembra il collegamento. Vai, dimmi. Sì. Ecco. Niente. Ascolta, vorrei capire a proposito di Rom, questa storia è un po' una tua contraddizione, no? Tu, come un po' la maggior parte delle leghiste, siete per far sparire questi campi Rom, perché luoghi di illegalità e roba del genere, no? Però allo stesso tempo tu sei favorevole per alcune cose illegali, cioè che lo Stato italiano attualmente non riconosce, tipo il matrimonio tra gli omosessuali. Ma che c'entra, scusa? Ma c'entra molto, perché il concetto è lo stesso. Ma che perché sei impazzito? Cioè io sono a favore del matrimonio omosessuale, che non c'è, e dunque non ho capito. Ma non compio nessuna illegalità, non è che chi fa il matrimonio omosessuale, cioè non, semplicemente è una cosa che non esiste, punto. Allora che cosa viola? Come non è cosa viola? Viola semplicemente quello che la ma non ha nessun effetto, ma non vuol dire nulla quello che stai dicendo, sono due cose che non possono essere paragonate. No, invece secondo me possono essere paragonate, perché siccome la cultura rom, come ti diceva il radioascoltatore precedente, è proprio quello di vivere in un certo stato, no? Perché l'accattonaggio, l'espediente, vabbè, allora il loro E allora, cioè, non capisco te, cioè, tu non puoi contemporaneamente essere legalista, diciamo così, per alcune vicende, per alcuni fatti, e libertario per altri. Cioè, non posso essere a favore, contro i campi rom e a favore del matrimonio gay. Beh, tu sei completamente fuori di testa. Alessandro da Torino. Alessandro, buonasera. Dimmi. Buonasera. Allora, volevo fare una piccola precisazione riguardo alla frase che ha detto lei sul poliziotto americano, sul fatto che in America difendano i loro poliziotti. Beh, sicuramente li difendono meglio rispetto all'Italia, non c'è dubbio. Sì, quello è vero. Però in America bisogna anche dire che se nasci negro e nasci povero, ce l'hai praticamente in quel posto. Vabbè, ma questo è un altro discorso, può darsi che sia. Se fosse stato un poliziotto nero ad ammazzare un bianco. Ma questo non credo proprio. Non credo. Fermi tutti, fermi tutti. Questo non credo. Questo non credo, fermi tutti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Servi di Roma fuori. Radio Padania e la Zanzara, una storia infinita ormai, Parenzo. Ancora. Siamo indissolubilmente legati a questi signori. Senti un ascoltatore, diversi ascoltatori, anzi, sentiamo, Radio Padania, cioè la radio ufficiale della Lega, e la Zanzara. Sì. Quando sento quei due lì della Zanzara, posso dire qualcosa? Ma se stiamo nei limiti della radiofonicità. Ascolta, secondo me le malattie le hanno assorbite tutte e due loro, perché hanno la bocca che non è collegata col cervello quando parlano. Sì. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Senti questo, senti questo. Questo David Parenzo, ma da dove arriva? Dalla Libia, dal Sudafrica, ma da dove arriva? A noi basta chi arriva da Radio 24, ci basta e ci avanza. Ma guarda, un italiano. Senza dubbi né ripensamenti. Sì, francamente sì. Puoi dire anche tu che sono italiano, perché altrimenti. Senti quest'altro, senti quest'altro. Clacaschi, clacaschi. E ho sentito quei personaggi che la prendono in giro, no? Dicendo che insomma sulle malattie e quant'altro. Sì, no, loro non si fanno problemi, è vero. Bravissima. Allora io dal profondo del mio cuore, no? Auguro a questi personaggi. Censuriamo gli auguri perché siamo sotto Natale. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Oh, un altro invece parla di Ebola, sentite. Ma non è Varin questo però? No, quello là che parlava è Varin. No, è Varin, certo. E in genere è più duro. Aspetta. Volevo dire, guarda, che quelli che hanno portato la sifilide in Europa sono gli spagnoli che l'hanno contratta in loco, in Sud America, avendo rapporti con i locali che a loro volta avevano rapporti con i lama. E si teorizza anche in Africa che l'Ebola provenga da origine dalle scimmie, cioè i bianchi che hanno avuto rapporti con le neve, là avevano anche la simpatica abitudine di avere rapporti con le scimmie. Poi ovviamente il resto va avanti. Quindi prima di dire fesserie mi pare che ci dovrebbe pensare su. Ebola e i rapporti con le scimmie. Ah, ci vogliono portare qui Varin. Senti ragazzo Varin. Senti. Ragazzi, glielo portate direttamente alla Zanzara, il primo contagiato di Ebola in Italia è sbarcato in questi minuti a Roma. Senza dubbi né ripensamenti. Padania e Marina Le Pen, guarda avanti. Appena vedi un rom, non avere dubbio alcuno. Ti sta rubando sicuramente il tuo portafoglio. Spara a vista, tanto quello è un rom. E Nabucco salirà con il cielo e ti cullerà. Vabbè, Lorenzo da Roma, eravamo con Gianluca o no? Gianluca da Roma, finito o no? Dai, leghisti. Boh, dai, Lorenzo da Roma. Leghisti. Pronto? Vai, dimmi. Volevo fare una domanda a Parenzo, visto che non mi ha risposto su Twitter ieri. Volevo sapere se considerava anche il Papa un reazionario come Adinolfi, viste le parole che ha detto no, ieri. No, assolutamente. Ma che c'entra adesso il Papa? Scusa, cosa ha detto il Papa? Il Papa fa il Papa. Papa fa il Papa. Il Papa fa il Papa. Ma su che cosa? Qual è l'argomento? Di cosa state parlando? Non lo so, mi ricordo questo tweet, ma non gli ho risposto. Vabbè, forse, ragazzi, non è che possiamo parlare di tweet di Lorenzo da Roma. Il Papa ha detto molto chiaramente quello che quello che pensa rispetto, da capo di Stato, non certo solo da capo di una religione, rispetto a diritti individualistici che adesso si vogliono promulgare, rispetto all'eutanasia, all'aborto, eccetera. Non mi pare che questo sia stato commentato come qualcosa di reazionario. Va bene, grazie. Tiziano da Brescia, grazie. Tiziano da Brescia. Fa il Papa, ti ho detto. Tiziano da Brescia, vai Tiziano. Sì, ciao. Tutto volevo dire che non sono un lettore di Famiglia Cristiana, ma ci siamo rotti le palle del benismo del perbenismo di Parenzo, specialmente nei confronti dei Rom. Tiziano. E vabbè, poi volevo dire che da Brescia, Tiziano da Brescia. Vabbè, Tiziano, dai, ma forza, se tu. Se cade ancora nel prendere per il culo per la terra. Comunque, vabbè, del maiale, quando è morto, non si butta via niente. Appunto. Quindi, ma che vuoi dire? Che possono dare un'utilità ai Rom. Possono dare? Eccolo qua. Si può dare un'utilità ai Rom. Cioè? Che del maiale, quando è morto, non si butta via niente. Si mangia le orecchie, si mangia la coda. Cioè, tu li vorresti ammazzare come i maiali? Ma sì. Ma sì. Ma certo. Ma te, vabbè, cioè, dai, normale, adesso. Tu Parenzo che daresti tua figlia, cioè, a un Rom, Tiziano da Brescia, che dice che li ammazzerebbe come maiali, dice, ma è normale, normale. Ma no, ma sta scherzando, certo, perché Parenzo che dice che affiderebbe sua figlia ad una persona Rom che non gli potrebbe garantire una vita normale, invece quello è normale. Ma non volete vivere nella sporcizia, quello è normale. A parte che non ha detto questo. Ma chi ha mai detto questo? No, non ha detto questo. Se fosse ma perché non collega non il cervello alla lingua? Se mamma fosse mia. Una persona che non ruba e non delinque, io darebbe gli suoi uffici, cioè, potrei fare. Ma lei ha avuto una istruzione persona, anche di base minima, elementare, ha avuto ma un minimo, certo, di istruzione. Ma bisognerebbe denunciare i suoi insegnanti. Bisognerebbe denunciare i suoi insegnanti. Ma che perbenista? Ma non c'è nessun perbenismo nel dire che questi qua bisogna integrarli e spendere anche dei soldi per integrarli. È un vantaggio nostro, perché tanto se li rimandi via, le ricordo che questi qui sono cittadini dell'Unione Europea e quindi ritornano, quindi è interesse nostro investire dei soldi per integrarli. Importante che investire i tuoi soldi per integrarli. Ma quali miei, tuoi? Ma una persona di colore che va in giro con un piccolo cedevedente. Ma chi ha mai difeso Cabobo, Tiziano? Sveglia! Ma stai scherzando? Ma quando mai uno ha difeso Cabobo? Ma di che cosa parli? Una settimana hanno inveito tutti gli ascoltatori ma smetti, ma vai a riascoltare dai, Tiziano, guarda, mamma mia, Tiziano Valenzo, guarda, Tiziano da Brescia che pensa di essere colta, invece prende per il culo per l'accento, non potrei dire che sono ebreo di merda. Stavo scherzando, eccolo là, adesso stai scherzando, eccolo là. Stavo scherzando sul tuo accento, lo stavi prendendo per il culo, però sul suo accento, certo, come possono fare con me sul mio accento. No, io ti ho mai scherzato sul tuo accento? Ma quello lo puoi fare tranquillamente, non è offensivo. Lo posso fare. Non mi sembra offensivo. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ciao. Ciao, bene, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ormai è tutto degradato. Grande iniziativa della COP, Parenzo, non ce ne fotte niente di fare pubblicità, ma c'è una grande iniziativa della COP che per la prima volta in Italia produrrà dei condoms, dei profilattici con il suo marchio, e li distribuirà nei suoi supermercati. L'Italia da questo punto di vista è un paese molto arretrato, perché c'è il più basso contenuto e consumo di condoms rispetto a tutta l'Europa, capito? E la Coop, chissà se il signor Caprotti di Esselunga farà la stessa cosa o dirà la stessa cosa. Signor Caprotti di Esselunga, la concorrenza anche sui profilati. Io ho anche perfino il cagnolino. Questa è un'altra storia, diciamo. Quella è un'altra cosa, diciamo. Un'altra storia. Cagnolino è un'altra cosa. Allora, Io non so se sta succedendo un casino su Berlusconi, Forza Italia, Fitto che fa un intervento durissimo sull'accordo con Renzi, quello che può fare Salvini, incoronato ma a metà da Berlusconi. Il giorno prima dell'incoronazione di Berlusconi, Giuliano Ferrara aveva detto di Salvini delle cose tremende, che non può fare il leader perché non si sa vestire, non si sa mettere la cravatta. Era un modo di dire, ovviamente, per dire che non è in grado di fare il leader. Abbiamo con noi Giuliano Ferrara, buonasera, ciao. Buon Giuliano, bene. Come molto andiamo? Bene, non c'è male. Senti, ma spiegaci questa cosa di Salvini, poi andiamo su Forza Italia, ma non può fare il leader secondo te, non è in grado, però Berlusconi ieri un po' l'ha incoronato, cioè un po'... ha detto che è un goleador, è stato carino, ma lì in Emilia Berlusconi prima gli ha dato Alan Fabbri, chi è quello, il cantante? Sì, sì, quello col codino, sì, quello col codino. Meraviglioso. Non è un cantante, non è un cantautore. La Lega è il candidato presidente, era ovvio che la Lega sarebbe andata bene, oltretutto la Lega fa casino con i zingari. Insomma, è una cosa tutta già vista, una perdita di tempo. Cioè, Grillo, stiamo parlando di cose inutili. Grillo si sapeva che avrebbe preso tanti voti perché è spiritoso, ha inventato il vaffanculo, diciamo quello televisivo, quello da piazza, sì. Faceva dei bei comizi, fa ridere la gente, è Grillo, e quindi pigliava i voti. Basta, gli italiani particolarmente adugiati dalla vecchia classe politica, montati dalle campagne sulla casa, hanno votato Grillo. Vabbè. E poi non è successo niente. Grillo e Casaleggio sono lì, sono sempre due guittoni e non hanno contribuito in niente al farsi della politica. Anzi, sono anche un po' spariti, diciamo. Ma no? Certo, stanno lì che si espellono tra di loro, eccetera. Allora, Salvini c'ha una sola cosa in più, che è la Lega, il nordismo. Sì. Però il nordismo è veramente stato importante in Italia per una sola ed unica ragione, perché Bossi era contemporaneamente un super Salvini che non diceva soltanto i migranti, ma diceva anche il Dio Po, un mito positivo, la padana, si è inventato l'inventabile e soprattutto si è messo d'accordo con Berlusconi, oppure è andato contro Berlusconi, ma insomma ha fatto delle triangolazioni politiche da urlo e quindi ha portato la Lega. Ma la Lega dopo tre anni c'era cinque ministri in un governo. Ma cioè, vuoi dire che Salvini non ha la statura politica di Bossi? No, Salvini non ha la statura politica, è troppo fuori da questa dimensione, capito? Può fare dei colletti di quartiere, così nei campetti, al calcetto. È più un solista, dice. Ma no, lui dice peggio, non un solista. Ma come solista? Non è un solista, no, è no, serie no. B, è la serie B. Ecco, è la serie B, c'è la serie B della politica, dici tu. Come si chiama? L'Albino Leff, che può certo fare dei gol, ma non può essere in Premier League, no? Non in Premier League, però sembra il contrario, ci sembra che oggi Forza Italia esempio, ha bisogno di per esempio Liga, e come la giudichi questa cosa di Berlusconi, perché Berlusconi dice in questo momento Salvini è popolare e dici lo incorona, ma è una roba così. Ma Berlusconi non sapete come ha fatto, dice che hanno fatto un colpo di Stato, poi si dimentica di dire che lui ha approvato il colpo di Stato e si è ritirato in buon ordine, poi dice mi sono dimesso perché sono stato costretto, poi mi sono costretto ma liberamente, poi insomma dice una cosa e il suo contrario, è uno che ama moltissimo essere funambolico e acrobatico, e quindi voglio dire Berlusconi dice oggi dice che Salvini è goleador, dopo domani dirà che Alfano è sempre stato nel suo cuore, cioè moderata, poi non c'entra Berlusconi, tanto guardate è inutile che stiamo a discutere, Berlusconi non è che fa un ruolo, è una cosa. Sì. Senza Berlusconi bisogna reinventarsi tutto, e reinventarsi tutto ci vogliono un sacco di idee, altro che Salvini. È Fitto? Eh? È Fitto, sì. Fitto. Appunto, anche lui fa parte della stessa categoria. La Serie B. Ma non è questione adesso di Serie B, non lo voglio dire, non voglio essere, non, lacrimonia, no. Lacrimonia. Diciamolo. Insomma sì, lacrimonia un po' c'è, un po' no. Quello che voglio dire è che però, insomma, inventatevi una destra. Berlusconi se l'è inventata in un anno fatale, il 94, quando sotto gli ordini di Achille Occhetto, vecchio, simpatico, baffone come intervista, con Ciampi come portabandiera, volevano prendere il potere. E lui ha detto, ma manco per sogno, ha messo insieme tutte delle Italie strane e sul suo nome, sulla sua televisione, sui suoi rosa confetto, sulla sua bella voce, sul suo microfono, sui palchi delle convention di Forza Italia ha costruito tutto un po' di roba. È andato bene, è andato male, ha realizzato, non ha realizzato, vabbè, poi sono sempre i professori liberali di government, sì, quali governeranno che si poteva fare di più. Va bene, ha fatto poco, non lo so. Secondo me non è così impietoso il giudizio della storia su Berlusconi. Però Berlusconi una cosa l'ha inventata, ed era che cosa? Era Berlusconi, cioè era lui stesso, il suo modo di parlare. Per cui questi sono movimenti interni a Forza Italia. Ma questi sono gente di partito, cosa vuoi che facciano? La poltrona, uno dice. Creativo, che abbia lo stesso... E chi è oggi? E chi è? Di trascinamento. Non c'è. Non c'è. Passera, che ne so. No, nessuno. Sì, Passera. No, Passera è una persona, ma insomma... No, niente. Creativo, Passera. No, ma dico... Ma vi rendete conto la parola Forza Italia che dice un po'? Come no? Lui si prese il calcio, si prese, era il presidente del Milan, aveva vinto 500 coppe. Vabbè, però la verità è quella che ha detto l'altro giorno il deputato là di Forza Italia, da noi Bianconi, che Berlusconi alla fine c'ha una cotta per Renzi, cioè è innamorato di Renzi. Questo è un po' il limite del momento. Questo non c'è dubbio, non è che c'ha una cotta in senso senile, perché non è mica diventato gay, è semplicemente che lui... sente e vede, non ci sarebbe niente di male se diventasse che... quello che lui aveva realizzato, il primo a fare il trasversalismo sociale, sì, fu Berlusconi, certo. È stato Berlusconi, certo. Prendeva i voti degli operai di Mirafiori, certo. E diceva di là o di qua. Renzi fa la stessa cosa, prende i voti dei briatorei, l'Italia, sì, briatorea, sì. Cioè di un ceto medio moderato, sì, questa è buona, parte, sì. Cioè, si prende in parte, non è ancora arrivato a fare il capolavoro di Berlusconi, e poi vuole anche lui fare o di qua o di là, e per fare questo oggi è chiaro che si devono mettere d'accordo, perché non ci sono istituzioni che garantiscano che si... Però lui quando parla della Camusso in quel modo, quando Renzi parla in quel modo della Camusso, dei sindacati, Berlusconi un po' si entusiasma, cioè quello che lui non ha mai potuto dire, non ha mai potuto fare, perché poi alla fine... Berlusconi aveva fatto lui l'articolo 18, il patto per l'Italia, appunto, la CGIL eccetera, quelli l'hanno messo sotto con quelle manifestazioni di 2 milioni di persone, la Confindustria l'ho tradito, appunto. E certo, è evidente, Renzi invece l'ha eliminato l'articolo 18, perché fare queste cose avendo conquistato il partito della sinistra italiana è una cosa ultra funambolica, straordinaria, e Berlusconi giustamente che ha fatto fuori lui prima tutti quelli che poi Renzi ha rottamato, perché D'Alema, Bersani, Veltroni, chi l'ha fatti fuori? Berlusconi, no? Sì, uno con la rimonta, l'altro vincendo le elezioni, l'altro pure, cioè Berlusconi ha vinto le elezioni, ha fatto fuori tutti i leader della vecchia sinistra, e poi è arrivato Renzi che ha detto: ah, bene, adesso vi rottamo. E quelli li hanno fatti fuori e lui li ha rottamati. Ma secondo te Berlusconi lo sente come un erede naturale, quasi come un figlio, quasi come un figlio. Quasi come un figlio, sì, beh, sono esagerate. Che un po' sì, dai, un po' ma sì. Ma poi si risentono tutti, Brunetta vuole essere figlio pure lui, Fitto vuole essere figlio pure lui. Vabbè, ho capito, però lui c'ha per Renzi c'ha un'ammirazione, ha un'ammirazione che considera tutti gli altri. Ma non ditelo troppo, non creiamo dei risentimenti. No, però, dei risentimenti. Però sono tutti per lui, sono quelli che lo circondano, sono tutti un po' mezze calzette. Mezze calzette. Invece Renzi è uno che c'ha le palle, diciamo la verità. Vabbè, adesso non esageriamo nemmeno. Berlusconi, insomma, è circondato da gente, alcuni dei quali sono mezze calzette, altri sono calzette. No, però lui pensa che siano tutti un po' mezze calzette, non all'altezza. Ma lui. Questo però lo pensa di tutti. Di ma per questo ha incoronato Salvini, di Renzi no, scusa. Di Renzi no, ha detto di Renzi no. Ma lui di tutti lo pensa, di tutti. Di tutti, eh? Anche di Salvini, anche di Salvini, dai, anche di Salvini. Anche di Salvini, certo. Ma fino a qualche giorno ha prima... Ha detto è bravo in televisione, funziona. A lui piaceva come partner con Fentagno soltanto Bossi. Bossi perché? I due grandi... Ma poi Bossi, come detto, è finito male per via di questa dannazione italiana della famiglia. O famiglia, come diceva la mia lo so, sì, è una dannazione. Non ce l'eravamo accorti. Tu sei fissato con la famiglia, pure tu sei fissato. E pensi che la famiglia naturale sia la cosa più bella del mondo? Sì, ma mica li la famiglia tradizionale, però, no? Mica li ha piazzati. Non vengono le cose, adesso non c'entra. C'entra, tu hai sempre, salti sempre la famiglia tradizionale. Ma non è che canto la famiglia tradizionale. Io dico che se vogliono sfasciare la famiglia, lo dicano, trovino gli argomenti giusti, razionali per sfasciarla e spieghino come fa l'umanità ad andare avanti. Ma la famiglia spesso è un coacervo di mali pazzeschi, di cose. No, ma non è vero, non sono così bacchettone, io sono più normale, più razionale. Per esempio, guarda la famiglia Cucchi, no? Adesso, per esempio, la Cucchi è andata a fare l'inviata al TG. Non la famiglia Cucchi, lei no, è andata. Non mi tirerete fuori una sola parola su persone che hanno subito un grande dolore. No, però è normale che fa l'inviata a Rai 3, secondo te? Ma che c'entra? No, Ilaria questo non mi direte fuori mai una parola. Ha ragione Ferrara. Non ti diremo mai fuori. No, non voglio diciamo rivoltolare il coltello in nessuna piaga, perché è antipatico, dai. È antipatico. È ovvio quello che penso, no? E beh, è ovvio, no, non è ovvio. Io è ovvio, però io non voglio rivoltolare. Ma qui noi siamo stati attaccati, massacrati, perché io mi sono permesso di dire che è un'assurdità il fatto che una che non ha mai fatto nulla in vita sua, che ma riguarda che la comunicazione, sono anche simboli, finire, vengono prese anche perché sono simboli. Una sorta di risarcimento, come quando candidano in Parlamento i parenti delle vittime del terrorismo, un abominio. Vabbè, però alla base c'è il fatto che Tarantelli è stato ucciso, ho capito, e anche Cucchi è stato trovato morto in ospedale, è diventato buono all'improvviso, è diventato buono dello Stato, non è che ci abbiamo fatto una bella figura istituzionale. Appunto. È diventato la buono famiglia per... ha ragione a farsi delle domande, poi che queste domande siano diventate una orrenda campagna di sputtanamento dello Stato, della democrazia italiana, della polizia, eccetera. Guardi in America, che succede? Discorso, però non c'entra col fatto che poi lei vuole vivere, è una persona vitale, vuole portare in giro la bandiera della sua vicenda e sa pure che fa l'inviata dove fa. Sì, in una trasmissione di Rai 3. Direi 3. Vabbè, questo. È fatta così. Io pure ho lavorato a Rai 3. L'Italia è fatta ancora, così, diciamo. E ancora me ne vergogno. Perché ti vergogni di lavorare a Rai 3? Perché? Sto scherzando, ma non si può dire una battuta. E che ne so, un attimo la pubblicità, poi torniamo, Poi torniamo a rompere i coglioni ancora a Giuliano Ferrara. Un attimo. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Dalla regia, ecco qua. Dalla regia, sì. Dalla regia usano fare queste cose qui per scandalizzare, sì. Per scandalizzare, no, gli non ospiti, c'è capito? Non c'è scandalo. Per scandalizzare gli ospiti, Giuliano Ferrara, figuriamoci se si fa scandalizzare. Ma se avete una pubblicità, nessuna trasmissione c'è tutta questa pubblicità. Per fortuna, guarda. Senti, ma è una cosa pazzesca. Teniamo famiglia. Il castello di Melegnano. Carisio era. Il raccordo anulare, quando è che me lo mandate? Il traffico, maledetto. Sì, di qualcosa ancora sul traffico. Ancora traffico, abbiamo il traffico. No. Giuliano, ancora abbiamo il traffico. Ero sicuro il casello di Melegnano, che palle. La Torino Savona. Com'era? Però in radio, uno che deve fare in radio? Aspetta, abbiamo un pezzo mitico di Ferrara Radio 24, sentite. Sì. Vi devo confessare una cosa, le strade in diretta sono una boiata pazzesca. Fate qualcosa, vi prego. Un pezzo mitologico che io mando in continuo, anzi era un po' che non lo mandavo in realtà, era un po', e ancora abbiamo il traffico, cioè nessuno ha fatto niente da quel tuo appello, caro Giuliano, nessuno... è spaventoso. Io voglio dire una cosa, ma come mai casa di Berlusconi è un via vai di transessuali, scusami, adesso voglio dire, beh, come, dove, prima quando? Vladimir Luxuria, ieri è andata un'altra che si chiama Mara Keplero, non è l'astronomo Keplero morto nel 600, no. Diciamo. Non ero stato informato, ditemi. È una nota transessuale romana, anche se lei non si definisce transessuale, è molto amica di Francesca Pascale, molto libera di costumi, di vita. Di Plero si è fidanzato con una ragazza più giovane che fa delle battaglie sui diritti civili e lui insomma un po' ci sta, mi sembra anche normale tutto sommato, non è che si accorda molto bene con la politica di Salvini, appunto. Incoronare Luxuria e poi Salvini sono due cose un po' in contraddizione, però Berlusconi può fare tutto, dovete rendervi conto che Berlusconi può fare assolutamente tutto, ma tutto che un uomo, sì. che deve andare a Cesano Bosconi perché è in affidamento ai servizi sociali, sì. E che è stato condannato, sentenza secondo me farsesca, sì, anche secondo me fiscale essendo il maggiore contribuente italiano, e che poi dopo questo ha fatto un patto in base al quale la legislatura continua, Renzi governa, sì. E si riformano le istituzioni, un uomo così può fare tutto, dici, può andare con a braccetto con Luxuria, non c'è un paragone in Europa nell'ultimo secolo, uno potrebbe dire anche dal punto di vista nefasto non c'è un paragone, direbbe. Nefasto qualcuno potrebbe dire, qualcuno, no, io figurati, bene e male sono una cosa così strana, difficile da fare. Ma io ho sempre detto, l'altro giorno quando l'ho visto la conferenza stampa di Salvini ho detto che era informissimo, numero uno, ancora l'attacco con il libro di Vesta, una cosa pazzesca, io non mai, sì. Sembrava appena uscito da Palazzo Chigi. Esatto, appena uscito da Palazzo Chigi. Scoppiettante. Eppure sì. Lo danno per morto. Molti dicono, vabbè, è finito, è morto, sono le ultime cose, Stefano Fo. In un certo senso senso è anche vero, in un certo senso lui sta come nella tomba di Tutankhamon, perché voglio dire, peggio di così non gli poteva andare con la condanna, con le cose, cioè, adesso poi l'hanno assolto per il caso Ruby, però, che è una cosa importante, però finché non verrà riabilitato da una sentenza, e non sarà perché poi europea, sia... eccetera, sta con due braccia legati dietro la schiena, morto no, ma sta invalidato. Però sai, si accumulano i processi, c'è Bari con le puttane, no, anche lì. Quello è tutto fregnaccio. Vabbè, però ma c'è poi c'ha la metà dei parlamentari che appoggiano Fitto, De Gregorio. Cioè, la metà dei parlamentari sempre è stato quel Berlusconi. Sì. Non ha mai governato con mano ferma, con polso geometrico, una coalizione, un governo e il partito. Mai. Non è un uomo che fa ordine intorno a sé. Di Forza Italia se ne fotte, diciamo la verità, Giuliano. Ma di tutto, lui è un uomo che crea disordine, è un rivoluzionario. Cioè, se potesse, che farebbe di Forza Italia? Farebbe un'altra cosa subito. Ma domani. No, ma poi alla fine gli piace pure, perché poi anche questo. Non ti può piacere parlare con Fitto, dai, insomma, non ti può piacere andare lì a discutere. Cioè, non ti ma può piacere. Perché no? Poi dici, alla fine, sai, la vita è fatta così. È fatta pure di queste cose. Certo, lui vuole però che tutti siano uno specchio nel quale si riflette la sua immagine. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Certo, quindi chi lavora con lui questo lo deve sapere. Comunque, alla fine, Luxuria, uno dice Berlusconi ha accolto Luxuria, ma in realtà è Luxuria che esprime parole buone nei confronti di Berlusconi, dicendo che è un grande liberale. Quindi ha vinto ancora. Cioè, anche... Ma Luxuria è una persona adorabile, io la ebbi a 8:30 e tra l'altro la chiamai Vladimir. Lui mi disse grazie, sei l'unico che pronuncia bene il mio nome. Perché però a te i trans non piacciono tanto, sì. Vladimir, come non mi piace? Mi piacciono da morire. I trans, no. Ah, da morire, mi eccitano anche. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma stai scherzando? Ti eccitano i trans? La sola idea di un transessuale eccitante, basta è come una didascalia, transessuale. È una cosa meravigliosa, l'ermafrodito, è una cosa stupenda. Cioè, ti eccitano i transessuali? Io non ci posso... No, questo è un altro discorso. Io sono felicemente coniugato, monogamo e casto, quindi non mi rompete i coglioni. No, monogamo. È brutto, io come idea mi eccita. Ti eccita. Dal punto di vista intellettuale, io monogamo. Sì. Intellettuale, mi eccita ugualmente. Tu lo sai che la monogamia è una perversione? Io questo sono molto sgarbiano. La monogamia è una delle più grandi perversioni. In realtà è una cosa normale la monogamia. Cioè, vabbè, vietate pure la monogamia. Adesso non si possono avere le allergie, o se si hanno le allergie bisogna avere il bugiardino al ristorante. Bisogna fare la raccolta differenziata. Si deve sposare tra maschi. Madonna, quante ne volete però. Veronesi dice anche che Dio non esiste perché c'è il cancro e perché c'è Auschwitz. Che cos'è, un cretino secondo te? Ma secondo me è il contrario, il cancro che non esiste perché c'è Dio, c'è la vita eterna. Veronesi non l'hanno informato. Non l'hanno informato bene. Non hanno informato della vita eterna. Briga del cancro, l'importante è andare in paradiso. Comunque, fosse per Giuliano, secondo me l'aborto sarebbe cancellato. Cioè, tu vieteresti l'aborto? Non mi no, per legge, dai, no, Giuliano, no, questa cosa no. Per ma stiamo scherzando. Ma dai, stiamo scherzando. Ma in nessun paese d'Europa è così, però, scusa. Ecco, scusami Parenzo, questa non è degna di te. In nessun paese d'Europa. Che cazzo se ne frega? Ci sarà un motivo, scusami. Non è una polemica mondiale. Io dico una cosa molto semplice. Una volta le donne hanno sempre abortito, gli uomini hanno sempre accettato che abortissero. La cultura ha sempre fatto un compromesso con l'aborto. Ma l'idea che l'aborto possa andare in copertina, come è successo con la rivista internazionale con il titolo Liberi di abortire, e che la teoria sia che l'aborto è una cosa normale di cui non si deve neanche parlare, che fa parte della privacy della vita di una donna, è una teoria pazzesca, tanto più che una volta non si vedeva, adesso si vede. Voi ci credete nell'esperienza, nei sensi, nella vista? Sì, beh certo. E allora si vede il film. E vabbè, ho capito. Il film della nascita, del concepimento, della nascita, della formazione del bambino. Cioè, tu cancelleresti la legge? Cromosomi, niente, è come uccidere i Cruciani. No, perché tu cancelleresti, cancelleresti la legge tu cur, così. E le donne come fanno? Io non cancellerei la legge, io cancello la cultura. Vabbè, la cultura rende accettabile e sano abortire. Scusa, se uno viene stuprato. Le leggi non possono mettere in galera una donna perché ha abortito, questo è chiaro. Però devono le politiche pubbliche dire: attento, che io non ti consentirò mai di prendere un bambino, risucchiarlo, frantumarlo, fare l'aborto nascita parziale e poi metterlo in un cestino con la dicitura rifiuti ospedalieri e buttarlo in un cestino. E allora l'alternativa. Fare, ma l'alternativa punto. Qual è? Non capisco. L'alternativa qual è? Tu cominci a fare delle politiche che rendono colpevole il fatto di abortire. Ma come colpevole? Colpevole è una colpa. C'è la donna, sì, la donna. Invita le donne, gli uomini e chiunque è responsabile di un aborto a valutare la possibilità di fare il bambino e darlo in adozione. E fai delle politiche per cui qualunque bambino abortito è una persona umana morta e quindi. Cioè le donne si devono sentire colpevoli. Non per i rifiuti ospedalieri. Le donne si devono sentire colpevoli. Ma non le donne, la società, le donne, gli uomini, quello che è. Il maschio in primo luogo. Vabbè, comunque. Chiunque ha concepito, mica concepiscono da solo le donne, no? Comunque Giuliano l'altro giorno ha detto una cosa, Parenzo, che è interessante. Questo Papa piace a un sacco di gente. Qui c'è qualcosa che non torna, se piace a, che ne so, a Dario Fo, come a Giuliano Ferrara magari, no? O no? No, a me piace, a me non piace il fatto che lui piaccia troppo alle persone sbagliate, appunto Dario Fo. Cioè, insomma, il suo successo mondano in parte è ricercato, però questo fine di riconquistare il mondo dipende dai mezzi che si usano. Se i mezzi sono di copiare dal mondo, di imitare il mondo, ma è un po' clownesco, vicario di Cristo. È un po' clownesco in alcuni momenti. No, dai. Clownesco no, io non ho il disprezzo che avete voi liberali, anticlericali, ma è un po', io lo vedo un po' come un clown. Io sono papista, guarda, io qui da casa mia vedo il cupolone, zitti, non mi parlate male del Papa. No, ma critichiamolo. Critichiamolo perché è un po' uno che chiama tutti, dai, ma basta. No? Teoricamente non si potrebbe criticare per la dottrina, basta, visto che è il vicario di Cristo. Ma basta chiamare tutti, non è possibile chiamare tutti. Questa non l'ho capita, che vuol dire? Anche tu chiami tutti. Vabbè, ma qui io mica sono il Papa, però. Uno chiama la gente così come se fosse il Papa della radio. Ma quello è meraviglioso. Senti una cosa, un'ultima cosa, ma tra l'ordine dei giornalisti e Barbara D'Urso, con chi stai tu? Sicuramente con Barbara D'Urso, ma non capisco la domanda. Ma perché non lo sai? Non sai che succede? Non conosco la notizia, io sono disinformato. Jacopino, allora, il signor Jacopino, il presidente dell'ordine dei giornalisti, che fra poco sarà con noi, tra l'altro, che è successo? Ha detto che Barbara D'Urso fa un'attività abusiva, non può intervistare, poi fa la TV del dolore e tutto. Ah, questo è terribile, me le facevano anche a me al Corriere della Sera agli inizi. Perché mi aveva preso lo stellino su raccomandazione di Alberto Ronchei, che era amico di mio padre, per scrivere, per fare. E il comitato di redazione dice, ma che siete matti? Quello può soltanto scrivere degli incentivi, dei commenti. E così hanno fatto la mia fortuna, perché sono andato qui la sera e invece di andare in giro a fare il cronista e la gavetta, mi sono messo subito a pontificare. A pontificare. Sembravo Luca Ricolfi, sembravo... Bretellero. Ciao Giuliano, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Vorrei sentire Giuseppe dalla provincia di Padova. Ciao dimmi, Giuseppe. Dimmi. Allora, senti, io abito a Legnaro, con la R. Sì, provincia di Padova, certo. Località di 5.000 abitanti. Conosco circa. Benissimo. Allora? Benissimo. Allora, cosa succede? Che mio figlio fa la prima elementare e ha appena iniziato ad andare a scuola, quindi tutto perfetto, astuccio, tutto in ordine. Qui vive una bella comunità sinti. Sì. Di cui uno dei bambini in classe con mio figlio. Cosa succede? Che un giorno manca una cosa dalla cartella. Un giorno ne manca un'altra, un giorno ne manca la terza, il bambino, noi non ci siamo trasferiti da poco, quindi non conosciamo benissimo la realtà del paese. Allora? Con la maestra, sì? La maestra cosa ci dice? Ma sapete, questo bambino, di cui il bambino nostro ci faceva il nome, vive in un campo nomadi, eccetera, eccetera, e quindi... purtroppo è abituato ad un certo tipo di comportamento. Cioè, non ho capito, gli rubavano... tutto, esatto. Cioè, a tuo figlio era il rom che gli rubava l'astuccio, queste robe qua. Esatto, le matite, le penne, le cose, insomma, che si portano in presenza. Vabbè, è così. Ma non è questo il problema qual è? È l'abitudine a muoversi in un contesto di continua illegalità. Beh, certo. Scusa, scusami, lì deve intervenire la maestra, anni. Però. Sì, vabbè, ma chi deve intervenire bene? Non lui solo. Sta dicendo un'altra cosa, però, che se uno è abituato a casa sua a rubare, se uno è abituato a rubare a casa sua, ruberà anche da altre parti. Il costo dell'integrazione, anche questa roba qui, mediatori culturali, persone di appoggio. È ladro. Ma non è prima c'è la punizione, dopo eventualmente c'è la redenzione. Insegnanti di sostegno, mediatori culturali e l'integrazione a questo, vedi, non c'è. E invece ci dovrebbe essere mediatori culturali. Metto mano alla pistola, metto mano alla pistola quando sento i mediatori culturali, insegnanti di sostegno, persone che spieghino allora, a questo. Scusa, la maestra in questione, la maestra che ha 21 anni, che è nella scuola. Ma, io, ma perché devo sentire mediatori culturali? Mediatori perché culturali? Così, perché l'integrazione ha un costo. Ma in questo qua ruba delle cose ai suoi compagni. Ruba delle cose ai suoi compagni. Infatti, la maestra li deve richiamare, anche ad altri. Anche agli altri. Ruba delle cose lì e deve essere, come dire, in qualche modo mettetevi d'accordo educato, voi però sia educato. Tu Cruciani, sia l'ascoltatore, sia tutti questi altri razzisti che ogni tanto chiamano. Ma che c'entra i razzisti? Sì, razzisti. Ma mica sta dicendo d'accordo. Che è razzista. Da una parte giustamente dite i bambini rom non devono suonare in metropolitano, stare per strada, ma devono andare a scuola. Poi vanno a scuola, chiama il genio di turno e dice "Ma allora che dovete fare?". Cioè, mettetevi d'accordo. Allora, no, per me devono andare a scuola e devono essere insegnanti di sostegno. L'integrazione costa. Se tua figlia andasse a rubare le cose al tu che cosa faresti? Ma mi arrabbierei sicuramente, ma sarei benissimo. Sicuramente molto molto questi arrabbiato. Questi qua probabilmente diranno al bambino bravo, hai fatto non bene, perché non hai rubato anche perché non gli hai rubato anche i pantaloni? Ma sì. perché non gli hai rubato anche il portafoglio dato che eri lì alla maestra? Perché i bambini diranno. Italiani non rubano la merendina, non si rubano la merendina tra loro a scuola, ma che è un altro. Sono tutti uguali, i bambini rom sono uguali agli italiani, hanno la stessa capacità di delinquere, non dite stronzate, dai, su. I bambini Fermi tutti. Sì. Allora, abbiamo qui ospite l'uomo che vuole bloccare uno dei miti della televisione italiana di oggi, Barbara D'Urso. Lui si chiama Enzo Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Buonasera. Buonasera, cioè, non metti mano alle pistole, vero? Perché no. Mediatori culturali mettevi mano alle pistole. No, mediatori culturali no, l'ordine dei giornalisti nemmeno. Grazie, molto buono, molto umano. No, lo so. Allora, Enzo Jacopino, allora io voglio dire una cosa. Mediatori culturali, quelli ci vogliono. Mamma soldi. Mia. Investire nell'integrazione, questo bisogna fare. Mamma mia, Parenzo, sei veramente, insisti su questa cosa. Io non capisco una cosa, Jacopino, non è mica la prima volta che viene fuori questa roba della D'Urso che fa interviste pur non essendo giornalista, perché proprio adesso la denunci? Perché credo che due domeniche fa abbia toccato un punto che francamente nessun essere civile può accettare. Cioè? Perché civile? Toni in collegamento audio-video, sì. Toni era stato un fidanzato della signora Ceste, dice lui, sì. Perché la signora Ceste non può più parlare, mi pare, no? Sì. Toni diceva, guardate che non ci siamo presi due caffè, cioè per l'amor di Dio, ma andavi a trovarla a casa quando non c'era il marito, vero? Sì, ci sono andato quando mi ha invitato, ma la macchina dove la mettevi? Si vedeva dalla strada? Sì, si vedeva, se uno voleva guardare nel cortile, vedeva la macchina. Ma tu non hai avuto storie? No, dice Toni. Ma tu ai carabinieri hai detto un'altra cosa. Non rispondere, Toni. Mandiamo la pubblicità. Quando riprende dopo la pubblicità, Toni dice non è vero che ho detto questa cosa ai carabinieri. Posso leggerti tre righe non mie, ma di una delle centinaia di persone, non solo giornalisti, che hanno commentato questa iniziativa. Dimmi. Alcune mattine fa ho acceso la TV alle 6:30 per vedere un risultato di calcio. C'era la replica della trasmissione della D'Urso con la foto della Ceste in primo piano e ho pensato, la stessa cosa può aver fatto sua figlia, prende il bus poco dopo, possibile debba vedere il volto di sua mamma e sentire chi scava nella sua vita senza ritegno? Non è giusto. E noi abbiamo figli, Allora, si spezza la vita dei. La figlia della signora Ceste ha 14 anni e va a scuola. Sì, però vale per tutti. Prego. Vale per tutti, per Presidente. Tutti, per cioè, tutti quelli che si occupano di cronaca, Jacopino, no? Cioè, i nostri colleghi che fanno la cronaca nera, non è che usano toni così diversi da quelli che usa Barbarella. Ci sono trasmissioni che fanno della cronaca nera, non solo, anzi, su Mediaset, il loro... No, anche sulla Rai, scusa. No, che dubbio c'è, ma infatti voi vi state citando perché c'è, come diceva Cruciani all'inizio, un mito della televisione. Chi certo. Vi ha detto che non facciamo la stessa cosa con gli altri? Ma cioè, scusa, tu... No, questo è interessante però, scusa. No, questo cioè, l'ha già provvedimenti... Sì, ma per capire, provvedimenti anche su altri giornalisti che fanno cronaca nera? Io posso dirti che domani verranno notificate, mandate, spedite a tutti i direttori di rete della RAI, visto che li avete citati, due dei quali sono giornalisti, ai direttori di Mediaset, dei richiami a comportarsi secondo quello che prevedono le nostre carte deontologiche. Però scusami un attimo, Enzo, mi sembra che tu hai definito all'inizio incivile la D'Urso, cioè un comportamento incivile. Io ho definito incivili alcune affermazioni che fa, perché quello che ti ho citato in particolare, staccando per lanciare la pubblicità, staccando per lanciare la pubblicità, e con alla ripresa il signor Toni che non si faceva vedere quel due domeniche ma quelle sono tecniche televisive, scusami Enzo, ma non è che siamo nati ieri, ma certo, no, mischiamo danaro e sentimento. Ma è così, è così. E poi tra l'altro c'è una contraddizione in quello che dici, perché ti prego, no, la contraddizione è questa: tu accusi la D'Urso perché non è una giornalista, no, e dunque per esercizio abusivo della professione, però nello stesso tempo la accusi di esprimersi in un certo modo quando in realtà non è giornalista, cioè nel senso che c'è delle due l'una, cioè la denunci in base a che? No, in base delle, tutte e due, forse anche qualcosa di terzo. Là c'è un aspetto che è l'esercizio abusivo di una professione che prevede l'articolo 348 del codice penale, e chi se ne frega dei numeri. Cioè secondo te merita pure la galera, non ho capito? No, io sono contro, cioè io sono Terrone, tu pensi che un Terrone possa volere la galera? Perché ne so, qualcuno ha scritto da qualche parte, al limite si rischia pure, in questi casi si rischia anche la galera. Quello, chiunque può scrivere quello, siamo un paese libero, chiunque può scrivere quello che vuole, però poi insomma deve avere anche la dignità, l'orgoglio. Cioè per te che cos'è? Barbara D'Urso che cos'è secondo te? Una? Barbara D'Urso è una signora che era iscritta all'ordine dei giornalisti, che siccome era stata sottoposta a procedimento disciplinare perché faceva pubblicità, cosa che i giornalisti non possono fare, certo, è andata via dall'ordine, ma continua a far finta di essere giornalista pur essendo consapevole che i giornalisti quelle regole le debbono rispettare. Guarda che d'accordo. Allora, secondo te, per esempio, non puoi intervistare Renzi? Lei ha intervistato Renzi e ci sono state proteste. Francamente non è il massimo. No, secondo te non dovrebbe intervistarlo? In quel contesto francamente no. Cioè nelle interviste politici non le può fare. Allora ti segnalo perché se non è Renzi anche qualcun altro evidentemente. Cioè interviste Chiambretti, allora. Interviste diciamo faccia a faccia tra D'Urso e un politico sono secondo Enzo Jacopino proibite, dovrebbero essere proibite perché D'Urso non è una giornalista. Allora io ti dico una cosa, che fra poco in Albania si inaugura una nuova televisione, come sai. Sì, ho letto. E chi domando farà... perché la fanno in Albania, vero? Per risparmiare sulla vita dei giornalisti italiani. Vabbè, adesso non esageriamo, okay. Come no? È come quelli che vanno all'estero, esportano la propria attività economica. Sulla vita dei lavoratori italiani. Perché forse probabilmente dobbiamo costare meno noi, se costassimo di meno resterebbero. Ma comunque lasciamo perdere questo argomento. Ci sarà una trasmissione di attualità con interviste fatta dalla signora Ferilli. Stessa cosa, politica cosa. Non mi risulta che la Ferilli sia giornalista. Allora te la prenderei pure con la Ferilli. Me la piglio con la Ferilli, con una televisione che trasmette dall'estero, cioè mi fai un po' più importante di quel pochissimo che sono. Italiano negli Stati Uniti, io che faccio? No, ho capito, però ragazzi, le norme non sono un gioco. Che cosa puoi fare da un emittente che ha sede legale e trasmette all'estero? Cioè secondo te anche Agon i giornalisti non dovrebbero lavorare per quella televisione albanese? No, ma... quali giornalisti non dovrebbero lavorare? Ci sono Caprari che è andato a lavorare lì. Il direttore, ho capito, Caprari che ha fatto una splendida esperienza in Rai e adesso si trasferisce, da quello che ho letto, 4 giorni a settimana, ogni 2 settimane in Albania. Ciascuno gestisce la sua vita come vuole, ma che significa? Caprari che è giornalista, anche se è un giornalista che è nato in pensione dalla Rai. No, ma tu... mi stai dicendo un'altra cosa sull'Albania, mi stai dicendo vanno a lavorare lì perché evidentemente costano meno meno rispetto all'Italia. No, chi ha organizzato la sede della TV lì lo ha fatto perché gli costa molto meno. Certo. Questa cosa penalizza anche i giornalisti italiani. Perché? È perché li pagheranno con la fame che c'è in giro, pur di avere qualcosa si accontenteranno di farsi pagare meno, cioè. Sì, va bene. Ma in che mondo vivete? Ma lo sapete quanto? No, ma su questo ha ragione Jacopino. Però scusami Jacopino, ti voglio chiedere una cosa, ma la D'Urso allora che rischi può correre, cioè concretamente? Noi continuiamo a definirci, io ho qualche dubbio, personalmente un paese civile. In un paese civile ci sono degli organi deputati, la magistratura. Cioè questa storia della ceste qua va interrotto tutto, secondo te, immediatamente va interrotta tutta questa telenovela, tutto questo tormentone vanno interrotte quelle punte di guardonismo. Vabbè, ma quello chi le decide che quando è guardonismo no? Dai Enzo, scusa, chi lo decide? È nella pubblicità. Ma la conta degli amanti delle scuole medie. Vabbè, ma ci sarà qualche scivolata, Beato te. Tu hai bisognerebbe figli, chiudere tutti i programmi certo di cronaca nera, Enzo. Ma certo che ho figli, Una figlia, ti capita tua figlia davanti a una cosa di questo genere, tu ti senti orgoglioso? Ma non lo so, Che le regole valgono solo ma non è questione di regole, se uno ha violato delle regole, no, risponderà in sede penale, in sede civile delle deve regole, valere, cioè, allora anche per chi l'ha visto per telefono, cioè, giallo di una volta ma chi gli ha detto che non varrà? Cioè, ma che mi stai dando ragione dicendo le regole vanno no perché ti penale, dico che quello civile. È un genere televisivo ormai che non solo funziona e fa i numeri e questo a te non interessa, perché tu dici non è che devo guardare se fa ascolto, devo guardare se risponde a dei canoni deontologici, ci dici, no, come presidente del nostro ordine. Dopodiché bisognerebbe, ho capito, ma se questo è vero dovresti chiudere mezzi palinsesti tutte le televisioni italiane. Sì, perché vi ho appena detto che metteremo in mora domani i direttori di rete della RAI, i direttori dei programmi, compreso quello che ospita la signora D'Urso, poi ciascuno si comporterà secondo coscienza. Loro pensano che quella sia informazione, la vita degli altri che non possono difendersi, raccontata dal buco della serratura, profanando le famiglie, le altre persone. Se a voi però per questo scusami, per questo ci sono gli organi deputati, cioè se uno si sente profanato farà le denunce. Infatti noi l'abbiamo segnalata alla GCOM, segnalata al Comitato Medie e Minori e l'abbiamo segnalata alla Procura però della Repubblica. Questo doveva avvenire anche per altre cose, ci sono state situazioni del passato con la RAI, con altre trasmissioni, comunque non si deve cominciare? Allora Pierluigi Battista ha scritto: tra Barbara D'Urso e l'ordine dei giornalisti di conio fascistico, mille volte Barbara D'Urso. Capito? Vabbè, Pierluigi Battista ha un conto personale da quando voleva che io non presentassi, perché poi le cose bisogna dirle a un certo punto, che io impedissi la presentazione di un libro su Freedom Flottiglia 1 nella sede dell'Ordine dei giornalisti. La presentazione è avvenuta, c'erano due giornalisti italiani che erano stati malmenati a bordo della Freedom Flottiglia 1, una di loro, Angela Lana, aveva scritto un libro, non dovevamo presentarlo, insomma. Ragazzi, questo no, parla di ordine fascista. Guarda, io sono dell'idea. L'unica cosa che ha fatto il fascismo è il sindacato. L'ordine lo ha fatto Gonella nel 1963. Forse con un po' di aritmetica si capirebbe che l'ordine è del 1963. Non comunque, se vuole fare interviste, per chiudere, Barbara D'Urso, rifaccia l'esame da giornalista o no? No, ma lei non ha mai fatto l'esame. Lei era giornalista pubblicista. Vabbè, quello che è, rifaccia, riprende il tesserino. E non fa pubblicità, non può fare pubblicità, poi capisci? Incassa meno soldi, dici tu. Rende. Vabbè, comunque secondo me chiunque può fare un'intervista, io sono di quest'idea, scusami Enzo, lo sai che io la penso così. Chiunque può fare l'intervista, ci sono le leggi penali, le leggi civili, se qualcuno si sente diffamato, anche Bonolis. Poi facciamo i piagnistei quando ci portano in tribunale perché ci citano in giudizio chiedendo risarcimenti milionari. Vabbè, quello è un altro discorso. Ma non è possibile che Barbara D'Urso non può fare un'intervista. Non è possibile che tu dici non può intervistare Renzi. Deve evitare di dire che è una giornalista, di far credere che è una giornalista. Ma non lo dice. Di parlare di testata giornalistica. Ma non lo dice. Di parlare dei miei inviati. Vabbè, ma che vuol dire? Ma quelle sono dettagli. Ma sono dettagli, Enzo. Ma perché tutto quello che non ti corrisponde è dettaglio. Ma no, inviati, non deve dire. Ma quello non dice, fa un'intervista, anche se non è una giornalista, chi se ne frega, fa un'intervista. I politici fanno a gara per andare lì, fanno a gara. Lo capisco, c'è un... Perché? Perché? Complimenti, perché fa ascolto, e ho capito. Perché fa, si trovano comodi, dici tu? No, non voglio dire questo, non mi permetto, non la conosco, non, fa ascolto, fa numeri, fa numeri, fa audience. Vabbè. Ma noi la nostra vita, tu la vita di tua figlia, la vuoi fare regolare dall'audience o dal da me? Vabbè, ma quello ci pensano le leggi, non ci deve pensare l'ordine del giorno, ci pensano le leggi. Ti abbraccio, ognuno fa la sua parte. Ciao. Lei, signor Cruciani, fa parte di una generazione di intellettuali, di politici e di dirigenti falliti. Prego. Allora, l'ultima battaglia di Salvini, caro Parenzo, si chiama il tostapane. Il tostapane, non so se hai... Contro l'Europa, diciamo. Sì, contro l'Europa, naturalmente. Perché sostiene che l'Europa vuole vietare il tostapane, quello con le due... Quello doppio. Bocche, quello doppio. Con le due bocche, sì. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. Ma non lo so se in Germania lo fanno. Comunque, la realtà è che è andato alla guerra del tostapane. Sì. In nome dell'Italia. Sono temi importanti. No, però su questo fosse così ha ragione. L'identità italiana. No, italiana. In nome del risparmio energetico, l'Europa potrebbe mettere fuori legge i tostapane doppi. Capito? E poi aggiunge fuori da questa gabbia di matti. Ma non è un dramma. Cioè l'Europa. Questo. Devo dire la verità. Fosse anch'io vero che uso il tostapane, fosse vero quello... che in nome del risparmio energetico vogliono mettere fuori uso il tostapane doppio, perché andassero a fare in culo. Io sì, voglio quello doppio. Voglio il tostapane doppio. Saranno cazzi miei o no? Malato di mente. Voglio il ti regalerò io a Natale il tostapane, singolo. Che ho classico anch'io, che si apre invece con un piatto unico dove ne puoi mettere addirittura tre contemporaneamente. Ma io lo voglio doppio, voglio quello che io non lo voglio cambiare. Non lo voglio cambiare, voglio quello che ho, che è doppio. Non lo fabbricheranno più, basta, fine, via. Ma roba incredibile. L'Europa, dai, ma perché si deve occupare del tostapane? Adesso io non so se ma perché così. Si deve occupare del tostapane l'Europa? Perché consuma di più ma e produce di meno, ma no? Chi se ne frega? Eh no, beh, il risparmio energetico è una roba che riguarda tutti. Arriva Salvini e la Le Pen. Allora, che vi abbiamo detto dai del Roma al tostapane, ma guarda che incredibile sta roba. L'ultima però, scusa, battaglia di Salvini, il tostapane. Che tempi. Allora, abbiamo intercettato il consigliere di Vicenza, il consigliere comunale di Vicenza, Cicero, il signor Cicero, il quale ha detto che i Rom sono come i maiali, cioè vogliono vivere nella sporcizia. Ovviamente lui che cosa ci ha risposto? La prima risposta qual è stata? La frase è stata decontestualizzata. Sentiamo. Pronto? Signor Cicero? Sì. Buonasera, qui alla Zanzara. Sì, salve. Come va? Sta? Bene, perché? Senta, ma allora, i nomadi perché secondo lei sono sporchi e vivono come maiali? Cioè, piace più ai nomadi vivere in quel modo? Ci spieghi il significato di questa frase? Come al solito voi sapete come funzionano i giornalisti, no? Sì. Cioè, giornalisti che si prende e si estrapola un pezzetto magari di un discorso molto più complesso. Perché lei deve calarsi in un contesto intanto. Ma quale contesto? Non c'è bisogno di calarsi in nessun contesto, Cicero. Hai detto questa frase qui, quella che abbiamo fatto ascoltare prima. Il contesto è quello che qualche giorno fa, sì, a campo ultimato praticamente, sì, okay, e questi signori dicono noi non andiamo dentro. Allora, se prima il campo era un porcaio, sì, perché dovevate venire prima di parlare adesso. Sì, no, ma il tema non è questo però. No, ma fermo. No, sì, fermo un attimo. No, lei stava dicendo, scusi, lei sta dicendo che loro non vogliono spostarsi in un campo pulito, in un campo messo a posto. Esattamente così. E perché? Così, perché se, perché secondo lei non vogliono spostarsi? Ah, glielo domandi a loro. Io ho detto, se prima che era sporco ci vivevano, sì, attenzione. Adesso che è pulito non ci voglio entrare, evidentemente gli va bene lo sporco. Non ha detto proprio così, signor Cicero, non ha detto gli va bene lo sporco, ha parlato di maiali, siccome non vogliono andare in questo campo, evidentemente secondo lui gli piace vivere come gli animali, come i maiali. Al di là delle cose che ha detto lei, il contesto, questi non si vogliono spostare, il significato di questa frase è molto chiaro. Secondo lei i nomadi sono sporchi? Io ho detto quelli che non vogliono rientrare su un campo pulito, sì, abbia pazienza, sono sporchi, abbia pazienza. Ma se abbia uno pazienza. Non vuole andare sul pulito, sì, cioè, e prima era nella merda fin cima alla testa, come lo giudica lei? Me lo dica lei? Perché lei ha utilizzato la parola maiali? Cioè sostanzialmente lei pensa che allora... Io ho fatto un esempio in natura e ho detto la natura, in natura il maiale e l'animale, sono tutti animali in natura, no? Quelli che non sono uomini, giusto? Sì. In natura ci sono animali puliti, il gatto per esempio, che continua a pulirsi, e animali sporchi, che gli sta bene evidentemente stare lì, evidentemente, ma scusi, ma lì... Lei ha mai sentito i commenti di quando salgono alcune di queste persone sui tram? Quali sono i commenti? Sono i commenti, scusi. Ah, guardi, io lo domandi alla gente, perché sa che santa è oggi? Santa ipocrisia. Questo è Cicero, che poi dice che 22 anni fa è stato visitato dai signori Rom, è stato rapinato in casa, è stato derubato in casa, ha subito un furto in casa. 20 anni fa. Si è scoperto successivamente. Ora però, se è vero che questi non si vogliono spostare, al di là dell'aggettivo animali, cioè al di là della, come dire, della parola usata da... È pure vero, spostati, no? Cioè, t'hanno fatto il campo attrezzato, spostati, non è perché avete le diatribe tra di voi. Certo. Spostatevi lì. Cioè, vi hanno fatto un campo attrezzato, hanno speso dei quattrini, spostatevi. Adesso non sarà perché è pulito e lì è sporco e a questi piace vivere nello sporco. Appunto. Non credo che sia così. Non credo sia così. Comunque c'è da pensare, c'è da riflettere, come direbbe qualcuno. Comunque si è scoperto che questo Cicero è anche abbastanza mussoliniano, no? Che dici? Di Mussolini salva tante cose. Ma nel fascismo quanto c'è da salvare, secondo lei? La parte infrastrutturale, l'ho detto, lo capisci? La sì, parte infrastrutturale, solo questa. Il lavoro, l'INPS, le pensioni, il sistema familiare, gli asili nido, le scuole. Sai quante scuole sono ancora? Beh, allora tanta roba, tanta roba allora. L'infrastruttura, capisci la parola? No, ma lei ha detto la scuola, ha detto le bonifiche, mica sono le infrastrutture, non mi faccia incazzare adesso, cazzo! La scuola è intesa come manufatti, magari lei è andata in una scuola, ma scusi un attimo, lei ha in mano il codice civile per caso? Sì, ho in mano, no, adesso in mano no, perché che è successo? Vada nelle prime pagine, che succede? Lei che parla tanto, vada nelle prime pagine, che la gente si lava la bocca e abbiamo ancora le leggi firmate Mussolini. Va bene, questo era Cicero, il mitologico Cicero. Andiamo a sentire Fabrizio dalla provincia di Piacenza. Veloce, vai Fabrizio. Ciao, ascolta, io voglio dire una cosa, che siamo diventati gli italiani buonisti, noi non facciamo niente, noi siamo quelli bravi, noi siamo, ma ci rendiamo conto invece di quanti siamo noi italiani, non accettiamo... No, non ho capito una mazza, scusa Fabrizio, abbi pazienza, sono le 20:45, parla chiaro, parla chiaro! Sì, c'è molta gente che è razzista, molta, io non sono razzista, per niente, io vorrei a tutti quei bresciani che hanno chiamato, li vorrei far vedere un film molto significativo che ha fatto tanti anni fa, Mino Manfredi, che era Brutti, Sporchi e Cattivi, e si rendono conto di come cazzo vivevano gli italiani. Ma quello che c'è, no, invece è proprio così. Perché noi siamo invece di questa povera gente che viene per trovare un posto per star bene, perché tutti quanti devono star bene, e accoglierli, e creare invece, cioè, creare una ricchezza a queste persone che vengono, quindi dargli lavoro e queste cose qua. No, dargli lavoro, sì, dargli lavoro, così diamo lavoro, così diamo lavoro. Dargli lavoro, ma chi poi? Chi dovrebbe dargli lavoro? Chi? Dargli un'istruzione, ma siccome questa Italia non... Non regge, perché non c'è lo Stato, proprio lo Stato non c'è. Questo, quello sì, ma non perché non diamo lavoro a questi, non perché non diamo lavoro a questi. Il lavoro se lo devono sudare tutti, compresi Rom, compresi Sinti, compresi Nomadi, compresi tutti. Claudio da Pordenone, basta con queste storie, dare lavoro, dare lavoro. Claudio. Ciao, Carlo Cruciani. Dimmi, dai. Senti, una specialità, la nutria. La nutria a modo mio. E una ricetta veramente speciale. Cioè? Io prendo la nutria, no, la lascio tutta una notte sotto la pompa. La pompa, il tetto continuo che ho, una vasca. In modo che al mattino sia bella bianca, frollata, che non sappia più di selvatico. Dopodiché faccio un bel soffritto con la cipolla, rosmarino, origano e metto la nutria a pezzettini. Cioè, tu mi stai dicendo che ma stai scherzando, ma stai facendo veramente, mangi la nutria? No, io no, agli amici gliela faccio. Vabbè, Claudio, no, sì. Stai scherzando, ma veramente si può cucinare la nutria secondo te? Perché no? Ma non stai mica scherzando? Ma è un topo, è praticamente un topo. Ma come un topo? Ma sai cosa mangia? Solamente le radici, più sano di così, soprattutto in questa ma sarà stagione. Dura la pella, la carne. Ma neanche se vuoi, e se vuoi dopo con la polentina bianca, ti metti dentro anche il cotechino. Mamma mia, che schifo. Viene un sughetto che è speciale. Ma io a cena a casa sua non vengo neanche a distanza di nutria. Scusate, fanno a gara per venire a casa mia gli amici. Sì, poi sono morti tutti dopo, però. Ma io la nutria. No, io gli dico che non è nutria perché la faccio passare per coniglio. Ma è speciale, la mangio. Guarda che truffatrice che è. Ma è una pazzesca, scusa. Dai, vabbè. No, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, ma non ci credo proprio, non ci credo proprio. Ti prego. Io dico, ma in Svezia veramente non hanno un cazzo da fare, eh? Cioè hanno cioè una specie di concorso, per trovare la parola che definisca la masturbazione femminile, cioè l'autoerotismo femminile. Ci sono 34 parole finaliste, cioè è veramente complicato se uno ci pensa, ci ho pensato per 2-3 ore oggi. Cioè in Svezia c'è una specie di concorso online per dire come si può chiamare, è troppo lunga la parola, masturbazione femminile, autoerotismo femminile, e sono state trovate diverse parole, una specie di concorso pubblico. Beh, io a te che parole ti vengono in mente, Parenzo? Ma francamente, cioè alternative, dici? Sì, quando tu devi definire la masturbazione femminile. Ma sarebbe bello fare un concorso radiofonico con la masturbazione femminile in diretta, live, una donna che si masturba in diretta, live. Posso dire che francamente non mi sono mai posto il problema. Mi è venuta un'idea adesso. Mi è venuta un'idea per farmi cacciare, un concorso di masturbazione femminile live. No, il problema è che in Svezia non esisteva. Amiche della Zanzara, chiamate, masturbatevi in diretta. Beh, questo però... Questo non credo, dici, questo non credo. No, non so, mi metto sempre nei panni dei nostri editori, delle persone che ascoltano anche. No, ma questa era un'idea così abbozzata che mi è venuta così. Un'idea abbozzata. Ma è che tu dica, non so, analizziamo l'andamento delle borse. Questo, allora, io credo che si possa utilizzare la parola ditalino, che è quella più... Forse però è romana come parola, ditalino, però ditalino. E c'è anche un'altra cosa, ditalino, forse anche sgrillettamento, come si può dire? Quello ricorda un po' Grillo, secondo me. Sì, ricorda Grillo. Comunque, cioè, rischi di aiutatemi voi, insomma, la masturbazione femminile, come si può definire? Ma si definisce già, non c'è bisogno di fare concorsi. Ci vuole qui una parola più. Ognuno, ma in Svezia lo fanno. Quella. In Svezia lo fanno. Lo fanno, è chiaro. Lì lo faranno. Qui però, insomma, non mi pare che si ponga questo problema, non mi pare che si ponga. Beh, però ci vorrebbe una definizione più degna, no? Ognuno lo chiamerà come ti pare. Vabbè, Giuseppe, no? Da Palermo, dai. Giuseppe da Palermo, dobbiamo concludere però. Giuseppe, vai. Sì, ciao Giuseppe Cruciani. Vai, dimmi. Sì, volevo dire due parole per No, vabbè, ma sei con l'auricolare, col viva voce, dai Giuseppe, su. No, senza auricolare. Niente, non si sente una mazza. Giulio da Pescara. Volevo solo portare la mia testimonianza per quanto riguarda l'integrazione dei Rom. Noi a Pescara, qui come comune, sì, li abbiamo stanziali da circa 30-40 anni, perché sì, come sono, no, state, certo, date case popolari, sì, non come solo no, a Pescara, su tutta la costa, Giulianova, Martinsicuro, Roseto e sì, quant'altro. Sì, sì. Costoro non si sono mai integrati, abbiamo mediatori culturali, abbiamo insegnanti di sostegno, abbiamo tutto ciò che gli è stato possibile. E non si sono mai integrati. Mai, loro mantengono sempre la doppia lingua, coloro che vanno a lavorare sono degli stupidi, loro possono, nella loro cultura devono solo delinquere gli uomini e le donne andare a chiedere. Bene, ma ci racconterai domani meglio. Voglio chiudere con questa citazione: non dimenticherò mai quando ho condotto una donna all'orgasmo con la lingua. Sì. Finalmente ero un professionista. A domani 18:30, ciao. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio.